riprende anche il nostro percorso con il nostro Beppi, come lo abbiamo chiamato, Pio X, Giuseppe Melchiorre Sarto, nel centenario della sua nascita. Siamo finalmente entrati nel 2014, il 20 agosto cadrà esattamente appunto il centenario della morte di Pio X. Sono con noi altri due ospiti dall'Istituto Comprensivo Statale di Tombolo, due docenti, quella di religione, Margherita Tringali, benvenuta. Grazie. E il professor Giambattista Antonello, che invece si occupa di arte e affini. Bene, grazie. Voi due, nello scorso anno scolastico, con quattro sezioni delle terze, che adesso sono disperse nelle scuole superiori, A, B, C e D, avete partecipato appunto a questo progetto Aurora. Però Tombolo ovviamente è legatissima a Pio X, lì lui ha fatto il cappellano per 9 anni, se non sbaglio. E quindi i ragazzi della scuola sono già abituati a conoscere questa figura. Questa occasione però è stata ulteriore per approfondirla. Certamente, perché non è la prima volta che approfondiamo, cerchiamo di portare, far conoscere ai ragazzi, e per non perdere la memoria proprio di San Pio X, perché ormai la parte, cioè, gli anziani stanno scomparendo, quindi tenere viva la memoria di San Pio X. E abbiamo pensato di lavorare su alcuni aspetti in modo particolare. C'era un lavoro a scuola sui mediatori, perché Tombolo è un paese di mediatori, quindi è stato ripreso quel lavoro, quelli che facevano i mediatori tra il compratore e l'acquirente, di storia, e quindi è stato ripreso, ristrutturato, e un gruppo di ragazzi ha lavorato su questa figura, chi è il mediatore, cosa si occupava, quindi capire anche l'ambiente in cui è vissuto San Pio X. L'altro è la famiglia, un contesto rurale, in modo particolare la vita delle donne, le difficoltà, e come cresce una famiglia, educare, l'istruzione. Per riguardo all'istruzione c'è stato proprio l'altro lavoro, è proprio sulla figura di San Pio X, quindi il rigore morale, culturale del santo. E come anche si è preso cura delle anime in un contesto molto difficile, in un contesto in cui purtroppo la situazione era difficile, un contesto possiamo dire villico, l'uso che ha tanto fatto soffrire San Pio X della bestemmia, quindi un parlare non tanto gentile ma abbastanza possiamo dire anche colorito, ecco, per noi. E quindi come si è preso cura San Pio X, e anche cura verso l'insegnamento, perché in fondo ha cercato di istruire il più possibile i ragazzi, quindi a parte l'educazione religiosa, ma anche tutto un contesto per dare i primi rudimenti della lettura della scrittura. Eravamo in un periodo non facile, insomma, alla fine dell'otto, gli anni esatti di Tombolo erano 1800? Verso l'ultima metà 50, perché nella seconda metà dell'Ottocento, verso la seconda metà, molto povero, molto povero, molto povero, quindi nel 58, nel 58 mi ricordavo, sì, quindi era stato appena ordinato, proveniva da Castelfranco, e quindi si è trovato in questo paesino sperduto di campagne. E con un parroco, tra l'altro, che aveva una salute molto precaria, quindi si è trovato non tanto a fare il cappellano quanto il parroco a dover fare le funzioni, quindi, e anche poi veniva anche chiamato dai paesi vicini per la particolarità quando uno è bravo, insomma, viene chiamato, intorno. Quindi la predicazione che lui curava in modo particolare, l'annuncio della parola, quindi, certo, e anche della musica stessa, cioè era un appassionato di musica, come di sappiamo musica. Su questo avete prodotto 3 CD già consegnati, ma coinvolgo appunto il professor Antonello, anche delle opere visive, no? Sì, delle 3 tavole figurative, diciamo, con il lavoro di ragazzi interpretate, diciamo, un po' sulla figura del santo, diciamo, tavole diverse. In una ho pensato, dopo sviluppato con i ragazzi, diciamo, il periodo, diciamo, del suo intento anche lavorativo di artigiano delle meridiane, intitolando l'ora della santità, quindi la meridiana, il tempo, l'inizio, e dopo la fine, diciamo, della sua vita terrena, quindi con delle meridiane espresse, diciamo, liberamente, la figura del santo, diciamo, e la facciata della chiesetta di Tombolo in cui ho operato in questo periodo. Questa è una, poi? E questa è la prima tavola. La seconda tavola, invece, in base alla carità, cristiana che aveva verso tutti, diciamo, l'abbiamo interpretata, diciamo, sulle opere, diciamo, di carità, dedicando con il titolo La carità non ha volto, diciamo, quella carità che dovrebbe venire dal cuore di ognuno senza avere, diciamo, di riferimenti e limiti. E poi c'è la terza, invece, come ha già detto, diciamo, la mia collega, interpretando il lavoro di mediatori e quindi questo lavoro diffuso nel paese, in cui la mano, il battito della mano era quello che sanciva, diciamo, la stretta di mano, la parola data, e quindi, diciamo, anche una cosa seria a quei livelli adesso giuridicamente, diciamo, valida. Giustamente. C'è una quarta tavola che però non la ha curato lei tavola direttamente. Che non ho curato io, ma ha curato, diciamo, la collega mia, in cui c'era espressa, diciamo, una foto d'epoca della in cui si faceva vedere la famiglia patriarcale di quei tempi, quindi dai nonni, quindi questa famiglia allargata, diciamo, ma parenti, certo, tutti quanti uniti attorno, diciamo, a una tavola, attorno, insomma, al capo della famiglia vera e propria, insomma, cioè il rispetto della generazione degli anziani, insomma. Quattro classi coinvolte, quindi indirettamente anche le loro famiglie, sì, un po' tutto il paese. Sì, ma anche tutta la scuola, perché avendo tutte le classi, quindi in ogni classe questa figura è stata ripresa per diversi aspetti. L'entusiasmo. Certamente l'entusiasmo dei ragazzi nel poter fare questo, insomma. Quindi diventava anche per loro mettersi in gioco e quindi far vedere, diciamo, anche i lavori come procedevano, insomma. E far meglio, magari. Sì. il puntare al far meglio. Voi avete partecipato a questo progetto Aurora nello scorso anno scolastico, quindi credo siate stati i primi a consegnare, sì, almeno tra, sì, quelli che abbiamo, sì, sentito, sì, sì, no, finora. E attendete il risultato. Sì, il risultato, andiamo anche, speriamo, il pellegrinaggio. Certo. Anche partecipare, e poi ci saranno varie attività con la parrocchia, quindi la parrocchia è molto vicina alla scuola, c'è una scuola radicata nel territorio dove c'è collaborazione con il comune, con la parrocchia, quindi c'è anche un tessuto, sono delle famiglie che partecipano alla vita della scuola, quindi, e c'è una storia anche incentrata, c'è, insomma, una su Pio X, incentrata, che ha lasciato molto, anche nel vostro caso più di 100 anni, evidentemente, sì, molti di più. Io ringrazio i professori Tringali, Margherita e Antonello Giambattista per la presenza. Grazie. Salutiamo indirettamente tutti i ragazzi che hanno partecipato, certo, e allora in bocca al lupo e buon proseguimento per il vostro lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie.